poi Trezeguet sulla destra, la palla spistata, Nedved, attenzione, cerca il fondo, pallonetto, poi arriva ad alta Del Piero, gol! Gol! Gol di Trezeguet! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Possiamo dire che sono due squadre diverse, che hanno caratteristiche diverse, con giocatori diversi, e credo che ognuno cercherà di imporre queste qualità, perlomeno quello che vogliamo fare noi. Se la Juve impone le proprie qualità, credo che ha più possibilità di vincere di noi. Se riusciamo a imporle noi, avremo più possibilità noi. Questa è la Coppa dei Campioni e soprattutto queste sono le semifinali. Se hai coraggio vinci, se hai paura perdi. Coraggio, coraggio, coraggio. Questo è un posto selvaggio. No, abbiamo una da perdere, non sono d'accordo, perché abbiamo una finale da guadagnare, una finale, diciamo, da poter giocare, sapendo che alla semifinale Champions, diciamo che tra le quattro squadre noi siamo la sorpresa per essere arrivati fino a questo punto, contro tre grandi squadre che negli ultimi anni hanno sempre giocato delle semifinali e finali, tra l'altro Real è campione d'Europa, quindi credo che sarà una sfida difficilissima, come credo che sia normale nella Champions, da dopo il girone, dagli ottavi in poi, credo che siano tutte sfide molto difficili. Coraggio, coraggio, coraggio, questo è un posto selvaggio. Coraggio, coraggio, coraggio, questo è un mondo selvaggio. Nessuno si sarebbe immaginato che la Juventus potesse arrivare a giocarsi una finale, a una semifinale, e quindi dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto e soprattutto consapevoli che abbiamo delle buone possibilità per poter arrivare in finale. Coraggio, coraggio, coraggio, questo è un posto selvaggio. Coraggio, coraggio, questo è un mondo selvaggio. Che bello, eh? Una vigilia come questa. Giorgio De Luca, Daniele Buonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. 5 maggio, tra l'altro, festa nazionale per gli juventini, giorno di lutto stretto per tutti gli interisti del pianeta, Indonesia e isole comprese. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Vediamo. Non so. Come va secondo te? Secondo me è una partita equilibrata, una partita nei 180 minuti il Real ha di più, ha più talento, ha anche più abitudine, anche se comunque la Juve ha tanti giocatori esperti che magari non hanno vinto la Champions League, ma che di partite come queste ne hanno giocate tante, magari sono diventati campioni del mondo, insomma, quindi da questo punto di vista non credo che ci sia una grande disparità. Poi c'è pure chi l'ha vinta come Tevez la Champions League. Anche Pirlo, sì, assolutamente. Quindi comunque dal punto di vista dell'esperienza, secondo me la differenza è poca. Dal punto di vista tecnico ce n'è un po', ma insomma nei 180 minuti può succedere. Ci può stare, direbbe Benitez, che la Juve riesca a fare l'impresa. Chiaramente la favorita tradizionale è il Real Madrid, no? Questo credo sia oggettivo. Ma mica è male giocare così, cioè giocare è anche meglio, da un certo punto di vista è anche meglio, no? Nel senso, comunque vada, sarà un successo. Io ripeto, la Champions della Juve, appunto, comunque vada, è stato un successo. Poi se arriva qualcosa in più è straordinario. L'unica cosa che in qualche modo creerebbe problemi sarebbe perdere male, ecco, perdere in una forma, ma non credo che sia questo il caso. Insomma, se dovesse perdere in una forma molto netta, quello forse toglierebbe un po' della... Chiaro, ma... Però non credo che ci siano queste condizioni, anzi io penso che per me, l'ho detto, è 65-35, 60-40, insomma, Real favorito, ma giocabile. Sì, la Juve deve tirarla lunga, secondo me. Più passano i minuti e rimane una situazione di equilibrio, e ogni minuto in più un minuto guadagnato, quindi sarà una partita di trincea, secondo me, per la Juventus. Intanto stasera vi aspetto, 800 24 00 24, il numero verde. I tifosi dell'Inter, ma non solo, potranno buffeggiare qua e là, oppure tifare per Ancelotti, che è Cristiano Ronaldo, che è pur sempre un bel tifare. Voglio farti sentire una cosa che non riguarda la Juventus ma riguarda il Milan, di cui avete lungamente parlato ieri sera a Tiki Tak. Cosa è saltato fuori? Tu che hai vissuto il Milan di Berlusconi e hai conosciuto Mr. B in occasione delle Global Series Legend, beh, c'era anche tu, l'hai visto Mr. B, ci puoi dire qualcosa su di lui? Io non ho mai visto Mr. B, tu da prima me lo dici, ma io non l'ho mai visto. Mai? Mai avuto a che fare con lui? Però l'avrei visto in televisione, nei nostri servizi, insomma avrei sentito parlare di lui. Non vivo neanche più qua, non l'ho mai visto, giuro, non, io fuori non lo vedo. Però... questa era Nesta, Pierluigi. No, io non so chi sia. Oh, Nesta mi ricorda, so mi ricorda sia. Quel famoso scherzo, che poi in realtà non è uno scherzo, di una persona che voleva intervistarlo, però lo chiamava, come che lo chiamava? Sbagliava a chiamarlo. Se c'è qualche ascoltatore all'ascolto che se lo ricorda bene, ma insomma, tipo gli dava, non mi ricordo se è Pirlo, lo chiamava Andrea, non mi ricordo quale fosse il giocatore col quale lo scambiava, faceva finta di scambiarlo, alla fine Nesta, dopo sei volte, la guardia diceva: ma non sono Andrea, non sono Andrea, diceva: vabbè dai, se ti dico questa cosa sul mio pur di farti felice. No, Sandro Nesta, ragazzo, da questo punto di vista timido e simpatico, divertente, molto schietto. Sì. No, non era secondo me una mossa quella di ieri sera di diplomazia, non so chi sia. È inutile che me lo chiedi, non so chi sia questo Mr. B. Che avete detto a Tiki Taka? Rapidamente poi abbiamo il traffico. Beh, abbiamo detto tante cose a Tiki Taka, abbiamo avuto un po' di... scoperto il nuovo proprietario del Milan. No, però ecco, la sensazione è che sia più Cina che Thailandia in questo momento e che al di là delle interviste che ci sono state con Mr. B, insomma, tutto è ancora da scrivere, non è così deciso come poteva sembrare magari qualche giorno fa. Il grande gambler gioca su due tavoli, Silvio. Sì, ma credo che oltre al gambling ci sia anche l'elemento affettivo, ci sia anche l'elemento dell'incertezza, insomma, chiunque... io so pure, sono uno che ha un sacco di dubbi quando deve fare le scelte, delle decisioni, quindi non posso parlare. Credo ci sia anche questo elemento, no, questo elemento affettivo di fondo, diciamo, da parte di Berlusconi. Sì, sì, sì, no, penso anch'io, lo dicevamo ieri, cioè è proprio una cosa che la sera vai a dormire che sì, ma forse, ma quasi, ma dai, ma facciamolo, e poi la mattina no, aspetta un attimo, facciamolo. Se la ricorda quella? Oh, ma vuole Ferrero vuole comprare anche Lecce, eh? Sì, sì, beh, tutti bei posti, devo dire, però Genova e Lecce, Sì, grandissimo. Traffico. Palla che sembra essere buona ancora per Del Piero. Attenzione Del Piero contro Hierro, una serie di dribbling, lo fa cadere, gol! Alex Del Piero raddoppia. Tutti convocati. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Tutti convocati. No, tranquillo. Io penso che dove più tranquillo sei è meglio, no? Perché se no, si pensa troppo, pone autopressione e questo dopo la partita puoi sbagliare qualcosa, no? Ma io penso che siamo tranquillo, confiato nella squadra, penso che affrontiamo un grande rivale, ma noi también venimo bene, no? Questo non deve stare tranquillo, non deve stare troppo tranquillo, che ha detto Steves, deve fare l'inferno. È arrivata la segnalazione, non dirò il peccatore, dirò soltanto il peccato, era un servizio in cui si chiedeva, c'era Nesta davanti, questo giornalista diceva: Pippo ti prego dimmi una cosa sul Milan, Pippo dimmi una cosa sul Champions, Pippo ti prego, e lui diceva: io non sono Pippo, e alla fine Nesta gli fa: vabbè dai, ti dico questa cosa sul Milan, basta che non mi chiami più Pippo, Era l'unico modo per risolvere. Alessio da Bangkok ci scrive, fa un pronostico a freddo, sì. Juventus 2 Real 1, pronti Caroselli all'Actra Bang, così scrive Alessio da Bangkok. 2-1, sì. Guarda, per me il risultato perfetto sarebbe un bello 0-0 questa sera. Sì, però possiamo avere questa cosa, l'enfatizzazione dell'importanza del gol fuori casa, se no è un po' esagerata. Cioè, sì, meglio il 2-1 dello 0-0, no? Sì, va bene, meglio vincere. Appunto. No, nel senso che 1-0 è meglio del 2-1. Non c'è assolutamente, assolutamente. No, l'1-0 sarebbe un'ottima ipotesi, senza alcun dubbio. stava a Sandir, sappiamo che è importantissimo non subire gol in casa quando si gioca la prima partita in casa. La Juve, fra l'altro, a questo punto di vista ha esperienza, perché ha giocato in casa sia contro il Dortmund che contro il Monaco la prima partita, quindi ha un'abitudine anche mentale ad approcciarla in un certo modo, con questo mix di coraggio che ti deriva dal fatto che giochi davanti al tuo pubblico e devi sfruttare il fattore campo, ma anche di prudenza, perché sai che subire un gol può diventare mortifero. E quindi certo, questo mix, come direbbe il nostro Sandro Merco, esatto. No, comunque l'importante è che Chiellini si allacci bene le scarpe, esatto, esatto. Mi raccomando, tacchetti, le stringhe, tutto a posto, perché non fai più, non devi più fare quella roba che hai fatto con Borussia Dortmund, perché sennò siamo fritti. Max Nerozzi dalla stampa, ciao Max. Ciao, buongiorno a tutti. Com'è la vigilia? Beh, ci sono molti tifosi del Real Madrid adesso in Piazza Castello che stanno già festeggiando. Festeggiando? Sì, no, non lo so se è per la partita o perché sono anche vedendo la sindone, non lo so. Vabbè. Senti, come la leggi questa partita? Fossi Allegri, come la disegneresti? Ma non lo so, perché da quel che si è capito da stamattina, dall'ultima rifinitura, probabilmente Allegri ha in serbo una piccola sorpresa per Ancelotti, nel senso che stamattina ha provato Sturaro al posto di Pereira. E che, al di là del nome, che non è enorme, magari il cambio qualcosa praticamente lo farà, se così sarà la Juve, perché Pereira ovviamente offre più dribbling, forse più imprevedibilità in attacco. Sturaro è uno più da battaglia, magari da spedire anche su cross, piuttosto che che a fare la guardia, o a Ames Rodriguez o a Isco, se giocheranno loro due, insomma, potrebbe essere una piccola variante, diciamo. Sì, potrebbe anche non essere una cattiva idea, visto che l'arsenale di centrocampo del Real Madrid è terrificante. Pier? Sì, assolutamente, l'arsenale, nonostante ovviamente i problemi che riguardano Modric e soprattutto Benzema, però la squadra ha enorme qualità e non ci sono grandi dubbi. 4-4-2 con quei due lì davanti mette comunque paura, però insomma io credo che Real Madrid qualche problemino ce l'abbia, quindi insomma, se questo poi basterà per colmare le distanze io non te lo so dire, però è una squadra che non ha una panchina enorme, non ha una panchina profondissima, e per esempio Sergio Ramos a centrocampo sappiamo che chiaramente può fare quel ruolo lì, ma è una fatica. È comunque un adattamento mica da ridere, insomma, cioè non è una cosa così normale. I colpi del Real Madrid sono pazzeschi, dipenderà molto dalla serata che avrà Cristiano, lo so che è banale dirlo, chiaramente dalla capacità che la Juve avrà nel mettergli invece pressione, nel fargli passare una brutta partita. Però sì, insomma, secondo me qualche punto debole il Real Madrid ce l'ha, insomma, senza adesso illudersi, però con grande rispetto io penso che non sia una corazzata invincibile, ma non sembra nemmeno più quello che aveva stampato tutti i record possibili all'inizio della stagione. Intanto 53 gol in stagione di Cristiano Ronaldo, 42 nella Liga, 8 in Champions e 3 nelle altre coppe, tanto per gradire. Max, dicevamo, non sembra più neanche Real Madrid di inizio stagione, no? Ti ricordi quello del record delle partite vinte, quello che è andato a prendersi la Coppa Intercontinentale o Mondialito, come vuoi chiamarlo tu. Non sembra più quella squadra lì, cioè qualcosa si è spezzato, non è chiaro bene che cosa sia, ma quella magia che c'era all'inizio non si è più vista né in Liga né in Champions. Hai ragione, dicono questo anche i dati sui gol subiti dal Real Madrid, che è una delle cose che fa sperare la Juve, immagino. Dopodiché penso che un po' di stanchezza anche inizia a pesare, lo diceva Ancelotti qualche tempo fa, nel senso che, ricordavate voi, la panchina non è di quelle chilometriche, non so, piuttosto del Bayern di Monaco. E all'inizio, se ricorderai, tutti correvano anche molto, dopodiché la squadra un po' si stroncava in due, cioè Bale, Ronaldo e il terzo che giocava, o Benzema o chi per lui, molto davanti, sai, nel calcio di oggi se non corri tutti, forse sì, sei Messi che sono Ronaldo, giochi, ma altrimenti no. In realtà un po' non l'ha fatto e secondo me ci ha rimesso. Poi tu ricordavi Sergio Ramos, che può farlo, però insomma, se pesano i nomi, pesano sempre, cioè Cristiano Ronaldo è un fenomeno, ma che Sergio Ramos abbia i tempi di gioco e di intuizione di Pirlo, di Dan Marchisio, per me non esiste, quindi qualcosa va a pagare in mezzo. Infatti non ce li ha. immagini comunque una partita di attesa, una partita di grande pazienza. Secondo me è il contrario di quel che hanno detto i due allenatori della Vigilia, che sono entrambi furbi. Non ci, che Ancelotti dice: se non hai coraggio perdi, ma io penso che Real faccia una partita d'attesa. Mi ricordo che Sacchi qualche volta conversando ricordava, lui che ovviamente è un manico del gioco, però ricordava come Ancelotti vinse, e tu ti ricorderai, a Monaco contro il Bayern, cioè due linee ben strette, Ronaldo e Benzema agli incroci della metà campo, e poi vanno a pigliare in contropiede. Io non dico che giocherà così, però non mi aspetto neanche una partita con Real riversato in avanti, perché penso che Ancelotti abbia visto, non so, la partita col Dortmund dove Morata e Tevez, se ti sbilanci, ti fanno male. Sì, ma scherzi, ma conoscendo Ancelotti, facesse così, avrei dei seri dubbi su sulle sue condizioni psicofisiche. Grazie Max. A voi, ciao, ciao. Allora, Gianfranco da Verona, primo ascoltatore, 800 24 00 24, no 0 a 0, sta scrivendo un ascoltatore, quindi mi sono ricartato sui numeri. 0 a 0 stasera, 1 a 1 Madrid, passa la Juve, Dario ed è rossonero. Benissimo. Gianfranco. Pronto? Pronto? Sì, sono qua. Allora, vorrei dire una cosa importante. Allora, arrivato nei quarti, cioè arrivato in queste condizioni con quattro squadre europee, direi che la cosa principale è quella che non c'entra il giocatore singolo, cioè ci vogliono le palle, e sono convinto che la Juve questa sera deve tirare fuori. Se tira fuori le palle, ce la facciamo. Una. La seconda cosa fondamentale, attenzione a cosa sto dicendo, è importante l'arbitraggio. L'arbitraggio. Se l'arbitraggio è buono, come dovrebbe essere, perché è arrivato questo mondo, eccetera, ce la facciamo anche arrivare nella finale, nella finalissima, portare a casa. Forse come Coppa. Quello di Monaco non sarebbe male, lei dice. Attenzione, l'arbitraggio, perché se per caso ci porta via qualche stupidaggine, qualche punizione, qualche rigore, che magari non si, da una parte o dall'altra, eccetera, la partita è rovinata. Altrimenti, se giochiamo, raccontiamolo anche al Monaco, però, giusto per la democrazia, no? Questo sempre, signor dai. Atkinson chiamato a questo compito, quindi poi le palle in una partita di Champions, le tiri fuori in una semifinale di Champions, credo che non ci siano grossi dubbi. A proposito di, non sono palle, mi viene in mente un'altra parola ma non la voglio dire. Bravo. Identificati sei responsabili della bomba carta del derby, quattro tifosi della Juventus, e quindi questa mi pare una buona notizia. Fossi nella Juventus, chiederei seriamente i danni a tutti costoro che, insomma, che non permetteranno. Il danno c'è perché caspita, al di là del danno d'immagine, c'è un danno anche misurabile, un danno fisico, che è quello legato alla chiusura dei settori, insomma. Poi c'è anche il danno d'immagine che per certi versi è guarda, volendo li metti in mutande, posso dirti. Sì. Cioè, volendo essere duri, succederà così. Comunque, identificati, hanno perquisito loro abitazioni, non ho altre notizie. Mi sembra invece una buona nuova per andare verso la partita di questa sera. C'è anche un'altra notizia invece che non c'entra niente con questo: Mourinho prolunga il contratto fino al 2019. Fino adesso ne prendeva pochi, poverino, ha prolungato di 2 anni, ne prendeva 14 di milioni di euro l'anno. Adesso c'è un accordo sulla parola, ne prenderà un po' di più perché non bastavano. Mica male, Mica male, signor Mourinho. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo. Penetrano il buio, ispirando terrore e superstizione. Questi guerrieri spaventosi sono i gufi, la morte con le ali. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Comincia. Tutti convocati. Gufi, state a casa! A casa davanti alla TV. 800 24 00 24, numero verde, c'è chi scrive: i Real Juve spesso decisi dagli errori arbitrali, pro Real, documentatevi simpaticoni. Rivolta anche a te, Pierluigi. Certo, chiaro. Pier da Torino, che non è Paolo. Buongiorno. Grazie per la convocazione. Dica. Stasera purtroppo non riesco ad andare allo stadio perché non ce l'ho fatta a prendere i biglietti. Però adesso parlo per me, non parlo per gli altri. Sì. Che dite sempre lo stadio di proprietà, però io Juventino ho fatto per anni e anni l'abbonamento, non poi ho smesso di andare allo Stadio delle Alpi perché è veramente un deserto, era 30.000 persone, non si vedeva, i giocatori si distingueva già, cioè, appunto Turan perché era di colore, cioè, rispetto agli altri, ecco, ma era ecco, invece adesso sono tornato dopo che la Juve è andata in B, dopo che ecco che è di nuovo uscito, quindi il fatto di andare allo stadio non è perché è di proprietà della Juve, è perché diciamo mi sono, non dico rinnamorato della Juve, certo, però tutte queste vicende mi avevano fatto talmente posso termine francese incazzare, che ho ripreso ad andare allo stadio, ecco. Sì, ma non è perché è di proprietà della Juve, no, sono d'accordo, ma uno, no, è poi, uno, semplicemente uno stadio bello comodo in cui si vede bene il calcio, ha la dimensione giusta, è chiaro, se si comincia ad andare nello stadio con la pista di mezzo, cioè, sono questi i discorsi, credo che nessuno vada allo stadio perché è di proprietà della Juventus, credo. Ma no, la gente va a vedere la partita, assolutamente, che lo stadio di proprietà dà la possibilità, innanzitutto è nuovo e quindi c'è questo elemento, no? È chiaro che è molto più facile oggi avere investimenti da parte di privati, di club, piuttosto che investimenti pubblici, a meno che non ci siano grandi manifestazioni che autorizzino questo tipo di investimento, e quindi questo è il primo elemento. E poi è chiaro che esiste un elemento di amor proprio, un elemento di controllo da parte del club, dell'ordine all'interno dell'impianto, anche un'autorità diversa, insomma, anche se poi è chiaro che non è che ci sono i soldati del club, a modo di corso di pallotta, non è che ci sono le forze dell'ordine gestite dalle società, però sicuramente si crea un tipo di ambiente diverso, lo Juventus Stadium è un fattore, secondo non è un caso che la Juve abbia ricominciato a vincere quando è in quello stadio, non è solo lo stadio ovviamente che li ha portati a vincere, però la squadra è fortissima ed è cresciuta prima di tutto tecnicamente, però io credo che lo stadio abbia accompagnato la crescita di questa squadra e abbia avuto un suo ruolo importante. No, ma è un ambiente che conta, per quanto possa pesare il famoso dodicesimo uomo, come vogliamo chiamare, quello di Torino è un ambiente che conta. Emiliano da Cremona, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi convocato. Dica. Salve, io sono tipo, non ho il problema del signore di prima perché sono innamorato della squadra, dei colori da sempre, insomma. Mm-hmm. Quindi al di là dello stadio, al di là di tutto, dei risultati e tutto. Però allora a questo punto io vorrei dire una cosa ai giocatori, ai tifosi, alla società. Prima di tutto di essere orgogliosi del cammino in Champions e dei 4 titoli consecutivi e tutto il resto che già conosciamo, ma arrivati a questo punto bisogna provarci, non si può non provarci, voilà. non esiste. Di sicuro non... di sicuro ci proveranno, Emiliano, ci mancherebbe, vanno lì e che fanno la festa solo perché sono arrivati, felici di essere qui, no, non credo, credo che sarebbero felici di essere da un'altra parte tutti quanti. Sentiamo anche Alessandro da Siracusa, poi rispondiamo in modo cumulativo. Dica, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Io devo fare una considerazione perché siamo stanchi di vedere in televisione incidenti allo stadio. Se prima il problema erano i tifosi, oggi non sono solo i tifosi il problema sono anche chi fa entrare questi tifosi allo stadio, perché è allucinante che entri una bomba carta in uno stadio di calcio dove entrano anche i bambini. Forse siamo arrivati al punto che questi tifosi non devono entrare più allo stadio e che le trasferte vengano vietate, perché siamo stanchi, non ce la facciamo più di assistere. Io ho il mio bambino e vedeva questi incidenti allo stadio, ma papà, ma come mai succedono queste cose? E io non so come spiegarmelo. Forse siamo arrivati al punto che dobbiamo evitare le trasferte. Poi un'altra cosa, e chiudo e vi ringrazio della cortesia. Stamattina leggevo, forse ho letto male, che il contratto di Andrea Pirlo, il rinnovo del contratto di Andrea Pirlo non è stato ancora firmato. Volevo sapere che notizie avete voi. Grazie. Ma Pirlo ha detto che se vince la Champions League potrebbe anche andare in America, potrebbe anche andare da un'altra parte. Ancelotti ha risposto: stai lì ancora un anno, vorrei insieme a Pierluigi Pardo, all'ospite che è in linea, virare su un altro tema che mi interessa. Non so se ne avete discusso ieri a Tiki Taka, della situazione delle romane verso il derby, di questa corsa bellissima verso la zona Champions. Sentiamo Pioli e Garcia. Mm. sofferto sicuramente, ma due cose sono importanti. Nella sofferenza la squadra ha tirato fuori grande carattere, ha creato comunque occasioni da gol, è riuscita a riprendere un avversario che era in grande giornata, e quindi dobbiamo essere non completamente soddisfatti, perché è chiaro che volevamo tre punti, però ci siamo lì e lotteremo fino alla fine. La squadra deve fare lo stesso, non c'è niente vinto, sono ancora quattro partite e dobbiamo fare le quattro ultime partite come oggi, ovviamente. Mi avete parlato con Giancarlo Dotto a Tiki Taka, Pier? No, ieri no, perché aveva la presentazione del libro che presenteremo presto anche a Tiki Taka, ma so che Garzia ha fatto uno show ieri con Giancarlo Dotto, o sbaglio? Sì. Ciao Giancarlo. Ciao a tutti voi, ciao. Sì, ha fatto uno show, ha parlato di amore come motore del mondo, quindi con Garzia inizio, probabilmente anche ispirato da fatti privati, insomma. E comunque l'amore è quello che lui anche evoca spesso, quello del rapporto con i suoi giocatori, no? Cioè io amo tutti i miei giocatori, no? E quindi c'è una grande massa protettiva, non so quanto ricambiato, ma direi questo però, forse è il punto. Direi però di sì, nel senso che specialmente l'ultima Roma, cioè quella che a un certo punto probabilmente ha saputo rinunciare a prendere atto di una realtà che è quella che più la Roma tecnica straordinaria e brillante di un tempo, ha saputo ritrovarsi attorno a valori magari meno esaltanti dal punto di vista estetico, però dal punto di vista della compattezza, insomma. Sì, no, infatti, ma si è ribaltata. Io ho la sensazione che si sia ribaltata la storia a Roma, no? L'inerzia a Roma si sia ribaltata l'inerzia. Sì, è ancora presto, secondo me, per dire che si sia ribaltata l'inerzia, però sicuramente la Roma nel momento più difficile ha tirato fuori due buone prestazioni. Che sono in controtendenza con tutto il 2015, insomma soltanto una volta prima di mercoledì scorso la Roma aveva fatto due gol in campionato nel 2015, era successo a Cagliari all'inizio di febbraio, l'ha fatto due volte in due partite. Si dirà che il Sassuolo non è esattamente la squadra più motivata, benissimo, non lo era neanche il Parma, non però Roma-Genoa è stato un test vero, sì, con una squadra che è in corsa per l'Europa League, che era in ottima salute, che non ha giocato neanche male al di là della finalizzazione che è mancata, e la Lazio, devo dire la verità, non è stata fortunata nell'ultimo mesetto, negli ultimi 20 giorni, perché ha avuto tanti infortuni in serie che l'hanno un po' limitata nel momento migliore, e poi forse era anche fisiologico che dopo 8 vittorie consecutive ci fosse. Però sarebbe davvero un peccato, perché la Lazio che è veramente una bella storia, cioè sarebbe un peccato dare un calcio a quel secchio dopo il campionato che ha fatto. Non lo so, sportivamente, la Lazio era stata costruita con l'obiettivo di arrivare in Europa League. Se dovesse centrare il terzo posto sarebbe un trionfo, se dovesse centrare il secondo posto sarebbe un trionfo senza precedenti, se dovesse arrivare quarta sarebbe comunque un successo, perché sinceramente la qualità della squadra è l'ho detto in tempi non sospetti in estate, a me piaceva molto, mi sembrava che avesse fatto un bellissimo mercato, poi non mi aspettavo l'esplosione di Felipe Anderson, nessuno credo lo potesse immaginare, e le cose sono andate ancora molto meglio di quello che si poteva già di positivo immaginare. Però insomma, voglio dire, relativizziamo le cose, cioè un quarto posto che oggi, ma l'ha detto anche Pioli in qualche modo l'altro giorno, insomma, bisogna evitare che ci sia un'alterazione della realtà. La realtà è che la Lazio sta facendo un campionato strepitoso, appunto per quello, cioè arrivata fin lì, cioè nessuno se lo aspettava. Certo, se dovesse arrivare quarta sarebbe una grandissima delusione, perché per la classifica che ha e per la qualità che ha merita sicuramente di farcela, però insomma comunque sia siamo di fronte a qualcosa di clamoroso e di incredibile, e secondo me il duello è ancora molto aperto, perché è vero che la Roma ha un calendario un po' più facile, però insomma comunque c'è quello spariglio alla penultima giornata che è decisivo, insomma chi vince quella partita al 90% arriva avanti. Sento che Giancarlo Dotto è d'accordo. Temo anch'io quello spariglio, soprattutto lo temo, nel senso che vorrei evitarlo assolutamente, vorrei evitare soprattutto lo psicodramma di quella partita che invece puntualmente avverrà, è ormai tema abbastanza inevitabile, visto che siamo in una città in cui la tifoseria è particolarmente feroce su questo punto, no? Si concentra quasi esclusivamente su questo punto, quindi lo temo, ma sarà abbastanza inevitabile. Condivido tutto quello che dice Luigi, tranne una cosa, amor di vanità, veramente, veramente molto peccabile quello che sto dicendo, però non è vero che nessuno aveva rosticato la grande straordinaria stagione di Felipe Anderson, perché Pierluigi ricorderà forse che è vero, scusa Pierluigi, ma come dire, è una vanità che non riesco a tenere a freno questa, ma veramente no, ma per l'ora, certo. No, perché siccome ho il sospetto di non capire nulla di calcio, è un sospetto più volte, in questo caso mi sono meravigliato che dopo mezz'ora che ho visto giocare questo ragazzo, dico questo ha il calcio sincopato, ha nella testa lo spartito dei grandi campioni. Io trovo che ci sia proprio un'analogia, hanno delle movenze veramente molto simili, delle caratteristiche molto simili. Poi Kakà ha fatto una carriera eccezionale, almeno fino al momento in cui ha vinto il pallone d'oro. Secondo me può andare anche oltre, sai, per lui, giusto? Perché questo frenare e rallentare sempre in base a questa musica misteriosa, a questi flussi che ha nella testa ancora prima. Nelle gambe, secondo me lo prospetta a diventare ancora migliore di Kakà. No, 3-4, ecco, l'unica speranza da tifoso romanista, confesso, che da 3-4 partite lui decelera un po', probabilmente gli stanno addosso in 3-4 invece che 1, e quindi questo potrebbe un attimo inciampare la Lazio, ma tutto accadrà nel derby, ahimè. Giancarlo, un attimo di pazienza, insieme a Pierluigi, traffico un secondo, poi torniamo, chiudiamo il discorso. Attenzione intanto alla mucchiata però. Tutti convocati. Convocati. Giancarlo Dotto, parlavi di Amor all'inizio, ma si amano ancora Garcia e la Roma? Si amano ancora Garcia e i suoi giocatori, Garcia e Totti? Ci sono stati momenti di transizione e anche di crisi probabilmente acuta, non tanto fra Garcia e i giocatori, sicuramente fra Garcia e altri giocatori, ma sicuramente fra Garcia e alcuni dirigenti, personalità tutte molto forti, ma anche a un certo punto hanno smesso di dialogare, insomma. Qualche tappettino è una persona sicuramente di genio, ma con una forte propensione a lavorare per agire da lupo solitario, insomma, questo ha fatto sì che nel mercato qualcosa, più di qualcosa, non abbia funzionato, insomma. In questo momento l'obiettivo comune, che è un obiettivo veramente di sopravvivenza per la Roma, ha fatto sì che tutta la squadra si compatti, insomma. Ieri sera l'ho visto nel corso di questa presentazione, c'era Baldissoni, Garcia, c'era Castan. Insomma, vedo che c'è questa comunità di intenti, non potrebbe essere altrimenti a questo punto, insomma. Sì, io sai Pierluigi cosa dicono i maliziosi, no? Sai perfettamente, Pardo, cosa dicono i maliziosi. Dicono un sacco di cose. Quale delle cose che dicono i maliziosi? La cosa che ultime due partite Totti in panca, squadra che torna a vincere. Ah, beh, ma questo è un grande classico della malizia. Questo con Pierluigi ci siamo pronunciati anche a Tiki Taka, insomma, su. Beh, ma il tema, è il tema. Ma parlare di questo non è togliere a Totti qualcosa, anzi è rendere l'ennesimo omaggio della sua carriera. Mi rendo conto che può sembrare un po' cervellotico, ma il fatto che la Roma vince due partite, il tema sia quello, ci racconta una volta di più quanto Totti sia un elemento enorme, quanto abbia fatto la storia di questo club. Io credo sinceramente che si debba relativizzare tutto. Totti è un giocatore che a Roma non era mai nato, non c'era mai stato nella storia della Roma un giocatore così, lo dicono i numeri mostruosi, ha più che doppiato il secondo cannoniere di sempre della storia della Roma, che è Pruzzo, ha fatto una carriera che, insomma, forse uno così tra 20 anni nascerà, ne potrebbe nascere un altro a Roma. Auguro alla Roma ovviamente che nasca prima, però voglio dirti, mi sembra veramente è un'anomalia mostruosa, non c'è una comparazione, secondo me, sono pochissime altre le società al mondo che hanno un giocatore che rappresenti in maniera così perfetta l'identità, un po' perché è romano e romanista, e un po' perché è stata una cosa completamente diversa da tutto il resto. Certamente. Nella certamente. Juve c'è stato Del Piero, ma a casa Del Piero ce ne sono stati altri. La forchetta, la forbice fra Del Piero e gli altri migliori della storia della Juve è infinitamente più piccola rispetto alla forchetta che esiste fra Totti e non so Pruzzo. No, ma è un'altra storia. Quindi è ovvio che si parli di Totti, ed è anche ovvio che ci sia chiaramente da discutere, che possa fare effetto vederlo in panchina e che ci si possa dividere fra sentimentali e pragmatici, cioè questo fa parte della storia. La verità è che qualsiasi società con un po' di sale in zucca da anni si deve interrogare, anzi troppo andato avanti Totti, e secondo me non è ancora finito, fra l'altro, quindi ci regalerà nuove perle, ma credo che già così sia una carriera che ha una longevità mostruosa, e quindi Che altro bisogna dire? No, semplicemente. Poi andiamo nello specifico. No, ma è tutto molto chiaro. È tutto molto chiaro. I fatti sono che non so per quanto tempo sia ancora gestibile la posizione di Francesco Totti, che abbiamo detto molte volte ha un'opinione pubblica pazzesca, ma secondo me lo sarà sempre di più. Nel caso di Totti, secondo me oggi la posizione sentimentale e quella pragmatica coincidono, nel senso che secondo me oggi è giusto proprio nel nome di Totti cominciare a immaginare che la Roma possa fare a meno di lui. In questo momento sta facendo fatica a immaginare questo, la Roma possa fare a meno di Totti. Fa fatica, si vede, insomma, brutto di giorno e bello di notte, nel senso che di giorno in panchina allunga un muso sicuramente poco felice di essere lì, però la sera poi si rivede e quando fosse consigliato bene comincia, si mette lì a scrivere i suoi compitini, diciamo così, in cui si mostra quello che deve essere, cioè un capitano al servizio della squadra anche quando non sta in campo. Per me Totti è il più grande calciatore della storia italiana. Basti pensare al numero di gol che fa, non da attaccante puro, questo è il dato secondo me mostruoso. Però in questo momento Totti deve cominciare a capire cosa vuole fare di sé, se vuole tenere in piedi acceso un mito tale, deve pensare di sbarcare dal campo l'immagine che qua e là caricaturale, esatto. Poi bisogna evitare di ballare una stagione di troppo, ho l'impressione che si vada in questa direzione. Grazie Giancarlo, ha aiutato a capire questo. Sì. Grazie, ciao, a voi, ricordiamo il libro, scusa, ricordiamo il libro, fagli fare il momento, ecco. Piccolo spazio pubblicità, prego. No, il libro è Sono apparso alla mia donna, è un per nulla velato omaggio all'amico e maestro Carmelo Bene, è un tema sull'ossessione maschile per eccellenza, che sembrerebbe essere il potere, invece è la donna. E il pallone dove lo mettiamo? Al terzo posto? Il pallone in questo caso, visto che l'ambientazione è il Brasile, il pallone regna lì sullo sfondo, occulto ma sempre presente. Quindi l'ossessione è la donna, il potere viene secondo, il pallone rimbalza. Per me il pallone è meglio del potere. È meglio anche delle donne? Non si è avventurato fino a questo punto. No, perché sai perché? Perché forse potrei dire, stavo avventurato sul territorio. Devi sempre considerare la resistenza. Però in effetti, se ci pensi, insomma, sai cos'è? Che il pallone esiste, lo puoi palleggiare, lo puoi calpestare. La donna non si sa bene se esiste, no? Un fenomeno quasi intraducibile. Proprio per questo diventa possessione, proprio perché non si sa bene cosa sia. Ciao Giancarlo, grazie, bocca al lupo. Ciao. Marco da Olbia, sì, buongiorno. Dica. Allora, vorrei confutare una tesi molto buona anche tra i giornalisti, secondo cui la Juve non avrebbe un grosso curriculum a livello europeo. Allora, ricordo che ha disputato 7 finali di Coppa dei Campioni, forse ci sono 5 squadre che hanno disputato più finali a livello europeo. Poi è stata la prima squadra a vincere tutte le competizioni europee. Purtroppo poi quando si arriva in una partita secca subentra molto il discorso legato alla fortuna. La Juve è sempre stata piuttosto sfortunata. Di 5 finali che ha perso, secondo me in 4 circostanze era nettamente superiore all'avversario, e che o per un motivo o per l'altro c'è sempre stata qualche circostanza sfavorevole. Faccio l'esempio di Ancelotti come contraltare. Ha disputato 4 finali, ne ha vinto 3. Una la vita, i rigori contro la Juventus, in una partita in cui la Juve mancava il giocatore più rappresentativo, Nedved. Una la vinta con un gol di Napoli, la terza la vinta pareggiando contro l'Atletico Madrid. Quindi la fortuna mi sembra fondamentale in una partita secca. Conta anche arrivare in finale. Arrivare in finale è un risultato sportivo, ma nessuno ha mai detto che la Juventus... Mi toglie una curiosità, noi che c'entra? Io sono d'accordo con lei, la Juve ha un buon curriculum europeo, l'abbiamo detto mille volte, il calcio da competizione breve, pure la Coppa Italia, non soltanto la Champions League o i mondiali, il calcio da Coppa è un altro sport rispetto al campionato, è un ragionamento che facciamo spessissimo, che facciamo per esempio spesso a proposito del Napoli, perché sono due categorie dello spirito completamente diverse. Da un lato c'è la continuità di rendimento, la ripetizione di un gesto che è quello di scendere in campo 38 volte, dall'altra c'è una serie di circostanze, ognuna diversa dall'altra e tutte speciali. Quindi sono maratone 100 metri. Ecco. E qui sicuramente la Juve nella sua storia a livello europeo non ha un curriculum comparabile con con quello che c'è in Italia, cioè la superiorità sugli scudetti rispetto al Milan è enorme, la superiorità sì. a livello europeo c'è una grossa proporzione, che c'è poi fortuna, quello che vuoi, poi bisogna alzarle. Le coppe europee nascono nel dopoguerra e crescono e diventano così importanti e così preponderanti negli ultimi 20-30 anni, quindi questo in qualche modo si lega anche alla crescita che ha avuto soprattutto il Milan da questo punto di vista, mentre gli scudetti ovviamente partono da più di 100 anni, quindi... Però insomma io sono d'accordo con lei, la Juve ha avuto un buon palmarès europeo e tante volte si è fermata sull'ultimo metro, alcune finali, penso per esempio a quella col Dortmund, erano state certo. praticamente dominate. Quella di Atene, quella con Real Madrid e il gol di Mijatovic. Pier, ci sentiamo domani. Sì, una cosa soltanto, a proposito di questo, io 12 secondi, considerate che noi abbiamo vinto un mondiale nel 2006 in una partita dove secondo me siamo stati inferiori ai francesi e 6 anni prima avevamo perso un europeo in una partita in cui eravamo stati superiori ai francesi, quindi veramente il confine fra trionfo e fallimento nelle partite secche, nelle finali è proprio molto labile, molto è un filo di seta, dai. Ciao Pierino, ciao amico mio. GR tutti convocati. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo. Con le trasmissioni in digitale, la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Dire, arrieccici. Tutti convocati. Tutti convocati sempre. 800 24 00 24 è il numero verde. Marco da Teramo ci ha chiamato. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Allora, io siccome sono parecchie volte, io seguo Radio 24 dal mattino alla sera, insomma. Ah. Quindi io siccome sono parecchie volte che sento dire che Totti è stato il più grande giocatore della storia del calcio italiano, per me non è affatto vero, ce ne sono altri molto più forti, vi spiego anche perché. Qualche nome? No, poi lì è questione di gusti, semplicemente. Ma allora, le dico Baggio, le dico Rivera, ne potrei dire anche un altro paio, ma il problema, le pongo il problema. Allora, Totti ha giocato esclusivamente nella Roma per tanti anni, non è stato mai da un'altra squadra per dimostrare il suo vero valore, ha avuto sempre squadre che hanno giocato per lui, quando un certo Roberto Baggio ha preso la nazionale nel 94 e l'ha portata alla finale, Totti è diventato campione del mondo per merito degli altri 10 che giocavano con lui, perché nella finale, nella semifinale non ci ha messo una nota, si dice in Abruzzo. Quindi non so, capisce che voglio dire, io avrei voluto vedere Totti nell'Inter, Totti nella Juve e Totti nella Real Madrid. Avrei voluto vederlo anch'io, Totti nel Milan, Totti nell'Inter, Totti nella Real Madrid. Intanto nella Roma ha vinto un paio di scudetti, ha tenuto comunque... Quando l'ha vinto? Lui non ha vinto niente. In nazionale ha vinto un mondiale, ma per merito degli altri, perché lui è stato merito preso degli in altri. Finale, eh. Sì, merito degli altri. Ha giocato quel mondiale, ha segnato quel rigore contro l'Australia che c'è valso il passaggio del turno. E poi, finito. Non c'è storia di Totti in nazionale. Ha fatto il mondiale che hanno fatto gli altri, ha fatto il mondiale che ha fatto Del Piero, ha fatto il mondiale che hanno fatto altri giocatori. Non ha fatto il mondiale che ha fatto Baggio, non solo il mondiale. Baggio per me è stato stratosferico, Totti no, cioè Baggio dove è andato è stato sempre il migliore. Totti ma a Roma è il migliore. A Roma ha fatto tanta roba, Marco. Poi possiamo discutere all'infinito. Io credo che su questo punto sia essenzialmente questione di gusti. Quanti dibattiti abbiamo fatto su chi è più forte tra Pelé e Maradona, poi o Di Stefano o Cruyff, alla fine sono tutti grandissimi giocatori, poi è una questione grosso modo di gusti, di preferenze. Non sono d'accordo sul fatto che Totti sia diventato campione del mondo da turista. Certamente non ha giocato un torneo da protagonista assoluto, ma ha giocato in un'Italia in cui il vero fuoriclasse è stato il pacchetto difensivo, tanto che il pallone d'oro alla fine è finito a Cannavaro. Io credo in rappresentanza di tutti quanti. Giovanni D'Ancona, buongiorno. Buongiorno Carlo Gente, buongiorno. Due considerazioni, una per quanto riguarda la violenza negli stadi, e sono stati trovati 4-5 persone, speriamo che vengano punite queste persone. 4. E tutte le altre, è stato chiuso lo stadio per due giornate, viene riaperto, perché se non succede questo, la violenza aumenta la violenza, cioè bisogna punire chi è, chi fa. Sì, diciamo su questo l'abbiamo sempre detto, e io ho aggiunto anche che fossi nella Juventus chiederei il risarcimento dei danni, perché sono stati provocati dei danni, cioè insomma sono stati provocati grandi danni economici, morali, di immagine, fisici, e quindi identificati benissimo. Carlo Genta, scusi, io ho chiamato per la formazione di questa sera. Sì. Allora, la Juve se va a 4 gioca con Evra e Lichtsteiner. Gioca a 4 di sicuro. Ecco, non devono superare la metà campo. Se Lichtsteiner e Evra non possono superare la metà campo, non servono a nulla. Io questa sera, sinceramente, perché non possono superare la metà campo? Perché altrimenti si va a 2, subiamo come abbiamo subito con il Parma, rimaniamo a 2, perché la velocità del Reale ci prende in contropiede e ci troviamo a 2. Beh, dipende anche come giocano quelli del centrocampo, non sono così d'accordo. Cioè, poi alla fine sono due partite, qualcosa bisogna fare, ma anche qualcosa bisogna pur rischiare. Quindi, poi questa è la squadra di Allegri, questo è il modulo di Allegri, e nelle partite importanti giocano questi. Giovanni, no? Io come uno come Barzagli non lo terrei fuori. Io questa sera, sinceramente, giocherei senza Evra, perché, ripeto, è anche una questione di fisicità. Cioè, i due laterali, le due ali del Reale sono molto forti fisicamente. Reale, Evra è un giocatore tecnicamente valido, sicuramente, molto intelligente tatticamente, però ci vuole anche questa sera molta forza. Io un giocatore come Barzagli non lo terrei fuori. Pirlo deve giocare, perciò, come la vedo io... Io questa sera andrei con un 4 con Lichtsteiner, poi nel momento che si avanza lui va su, perché lui va sempre su, se rimane a 3 non si rischia come abbiamo rischiato alcune partite giocando a 4. Poi vediamo, perché abbiamo sentito prima Nerozzi, potrebbe stamattina nella rifinitura è stato schierato Sturaro con i titolari, quindi potrebbe esserci questa... potrebbe esserci questa mossa come copertura sui grandi centrocampisti del Real Madrid, ma a me non sorprende, e anzi io condivido invece l'idea di Allegri di giocare a 4, di giocare con la sua idea di calcio, di giocare in maniera anche un po' più offensiva, perché alla fine si tratterebbe anche di portare a casa un risultato. È chiaro che primo non prenderle questa sera, ma credo che varrà per tutte e due, e poi in due partite bisogna anche portare a casa il risultato. Pasquale? Da Napoli, buongiorno. Pronto. Allora, Benitez va o resta? Resto o va via? Penso che dovrebbe restare. Però vabbè. Lei vorrebbe rimanesse? Sì. Io vorrei, sì, sicuramente. Hanno proposto un quadriennale ultimamente. Anche perché poi dovrebbe ritornare Reina. Sì, ho sentito, comunque, letto, vediamo. Sì, comunque? Diciamo che lui è più re di Coppa, in Coppa diciamo che le squadre si scoprono un pochino, si aprono, quindi ha più possibilità di vittoria. Diciamo che in campionato mi ha un po' deluso. Beh, un po' deluso, sì, non solo lei, molti tifosi del Napoli. Poi adesso vediamo come. Vediamo come va a finire, perché ho l'impressione che Roma, Lazio, Napoli nell'ordine non sia ancora una storia chiusa, anche perché ci sono, come lei sa, il derby alla penultima e Napoli-Lazio all'ultima giornata di campionato. Quindi certamente il Napoli in campionato è stato deludente, ma io credo che questa settimana sarà estremamente importante per darci la dimensione del nostro calcio in Europa. C'è stasera la Juventus, ma non dimentichiamoci, sono le due semifinali di Europa League giovedì, e il Napoli ha un avversario, il Nipro, che è molto fisico, molto tattico. Ci vorrà grande pazienza. With a little grin on his face as he hunts Manny Pacquiao with right hand counter shots, lands a left hook upstairs. He did what we had to do tonight. tonight. And I'm truly blessed. Manny Pacquiao is blessed. And I want to thank all the fans that came out to support this event. I got him many times. I sold the punches. And I think I thought I won the fight. Facciamo un salto a New York. Simone Sandri, ciao. Buon pomeriggio, Carlo. Allora, Floyd Mayweather, questa storia dell'altro giorno, in questo verdetto molto, molto contestato, che se ne parla ancora in America o è passato tutto in cavalleria? Questo... Sì, no, diciamo che il verdetto l'ha contestato solo Pacquiao, perché la maggior parte della gente, a partire da Mike Tyson, da Oscar De La Hoya, hanno sottolineato come sia stato noioso questo combattimento. Sì, noiosissimo. 5 anni di attesa per un combattimento che alla fine non ha divertito nessuno. È anche vero che, vogliamo essere onesti, Mayweather è sempre stato un pugile di questo tipo, non ha mai dato spettacolo, un pugile molto tattico, molto difensivo, che fa diciamo il suo modo di stare sul ring, la sua grande caratteristica, forse uno dei migliori tactician, cioè pugili tattici della storia, per cui si è affrontato un avversario che è, diciamo, 5 anni dopo il suo prime, non a caso, perché non è un caso che questo incontro è arrivato 5 anni più tardi, perché Mayweather ha aspettato forse il momento giusto per lui e ne è venuto fuori un incontro veramente deludente, perché qui si era considerato l'incontro del secolo, se questo è l'incontro del secolo lascia stare Simone, ma poi io sono dell'idea che, insomma, in uno sport in profonda crisi come il pugilato, solo i grandi massimi possono scrivere ancora qualcosa. Di grandi massimi in questo momento non ce ne sono, e quindi ci accontentiamo di questo, che non riesco a definire l'incontro del secolo. Invece not NBA, perché lì ne sta succedendo di belle, tre campi rubati su quattro. Perché? E come? Perché se da un certo punto di vista si poteva aspettare la vittoria dei Bulls, che adesso stanno giocando un attimo a pallacanestro, non ha stati problemi nella serie con Milwaukee, che sfruttano ovviamente le assenze di Cleveland, Kevin Love su tutti, ma anche J.R. Smith per le prime due partite della serie. Veramente inaspettata la vittoria dei Clippers a Houston dopo una serie spaziale, forse la più bella serie di primo turno della storia dell'NBA, chiusa alla sirena praticamente di gara 7 contro gli Spurs. Senza lo stirato Chris Paul sono andati a vincere, dominando a Houston. È veramente incredibile ed è un'occasione persa per i Rockets, che sentiranno amaramente, perché rischiano di perdere, secondo me, la serie. Una serie abbastanza equilibrata per una partita che hanno giocato con un atteggiamento imbarazzante, senza intensità, considerata praticamente una partita già vinta solo perché nell'altra squadra mancava il miglior giocatore, ma lì non è così. NBA non funziona così, devi entrare in campo e dare il 100% tutte le partite, perché sennò rischi delle brutte figure e rischi delle sconfitte come inaspettate come questa. No, sicuro, ma a parte il fatto che nei playoff non puoi permetterti questo atteggiamento, onestamente i Clippers sembrano un po' una squadra del destino, assomigliano un po' alla squadra del destino. Sono d'accordo e non credo che l'avrei mai detto nessuno né un mese fa, quando hanno iniziato la loro marcia, e quando fino a un mese fa hanno abbastanza deluso i Clippers, né soprattutto all'inizio della serie con San Antonio, perché diciamoci la verità, un po' tutti gli addetti ai lavori consideravano quella come la serie più bella del primo turno, ma davano favoriti, se non strafavoriti, gli Spurs per la loro esperienza, perché Chris Paul si porta dietro questa fama di non essere un grande closer, di non essere uno che nei minuti decisivi è affidabile, e invece la verità è che questa serie ha decretato che questi Clippers sono una squadra che può veramente addirittura puntare al titolo, perché potrebbe dare fastidio a Golden State, che secondo me resta di gran lunga la favorita per il titolo. Però questi Clippers, per come giocano, per il carattere, per quello che ha dimostrato Chris Paul, ovviamente se riuscirà a tornare con una condizione decente, possono veramente sorprendere, secondo me. Golden State, che è stata l'unica squadra a tenere il punto, cioè a tenere fattore campo contro Memphis. Guarda, non so oggi chi prenderei tra quello che è stato votato MVP, Steve Curry e Klay Thompson come coppia, e quella di Oklahoma, cioè Durant Westbrook. Ti posso dire che Jeff Van Gundy, che è l'analista dell'ABC, ex grande allenatore dei Knicks e anche dei Rockets, ha detto che secondo lui, da un punto di vista offensivo, quindi parliamo solo da un punto di vista offensivo, la coppia Curry-Thompson è forse una delle migliori della storia dell'NBA. parole grosse, però veramente sì. Questi sono due giocatori che a livello offensivo sono spaziali. Io sinceramente non ricordo un backcourt così, così dominante e così incredibilmente versatile, sinceramente non ricordo, veramente è qualcosa, stanno facendo qualcosa di assolutamente spaziale. Sì, poi c'è anche l'altra serie dove c'è altra squadra del destino, la Washington dei miracoli, che ha fatto la festa ad Atlanta al primo giro, anche allora, questo Washington non sottovalutare assolutamente Washington. Come le prospettive cambiano, Washington è entrata nella post-season con l'idea che probabilmente sarebbe uscita al primo turno e che Whitman, l'allenatore, sarebbe stato licenziato. Atlanta è entrata con il nickname di Spurs of the East, di Spurs dell'Est, come hai detto tu, come la squadra del destino. Atlanta ha fatto fatica con Brooklyn. Washington si è sbarazzata con un cappotto senza repliche con Toronto e poi con un secondo tempo spaziale hanno vinto anche ad Atlanta, dimostrando che veramente forse sono una squadra che adesso rischia di essere quella che può infastidire e quella che uscirà dal match-up tra Cleveland e Chicago, che sembra la sua favorita adesso. Però veramente questi, con l'esperienza di Pierce, con Wall e Bill, veramente questi stanno facendo qualcosa di veramente aspettato. Grazie Simone, sentiamo presto. Grazie a te. Divertiti lì a New York con i playoff NBA meravigliosi. Stiamo facendo le ore piccole per vedere queste. L'altro giorno ho visto il tweet di Gianmarco Pozzecco, stanotte mi sono sparato i playoff NBA e poi il match Mayweather-Pacquiao, notte in bianco. Allora, Gianmario Lodi, buongiorno, 800240024, tra poco vi faccio sentire anche qualche voce interessante che è uscita ieri dalla partita del cuore, però quella sapete bene, match for Expo, con un sacco di straordinarie vecchie glorie in campo e qualcuno si è commosso, 40.000 sugli spalti, e questo dato dovrebbe far riflettere qualcuno. Comunque, Gianmario, dica. Buongiorno Genta, buongiorno. Sono molto orgoglioso di parlare con lei. Anch'io, dica. Volevo iniziare con un Forza Blancos. Mi mandate al diavolo. Ma no. Perché? Io sono tifoso viola e volevo portarvi sulla partitissima di giovedì sera. Hey. Volevo sapere non è facile, da lei le sue impressioni. Le mie impressioni è che non sarà una partita semplice, non sarà un doppio confronto facile, ma la Fiorentina ce la può fare. Cioè, io anche in questo caso direi 60-40 per gli ispanici. Però io continuo a sognare una finale tutta italiana a Varsavia e quindi lasciatemi chiudere gli occhi e pensare che non si calpestano i sogni, insomma. Voglio farvi sentire invece i monosillabi di Paolo Maldini ieri, che era presente a San Siro, ha parlato è tanto, però qualcosa ha detto. C'è poco da dire, i risultati sono questi e sinceramente è una stagione veramente negativa. Ma credo di sì, se ci sono investitori che possono dare quelle cifre, assolutamente sì. C'era anche Shevchenko che invece ha detto no, io spero che Berlusconi rimanga al suo posto, insomma fa parte della categoria dei nostalgici che mi sembra in questi giorni sia sempre più nutrita. Ma lo dico che io sono tifoso del Milan e qualsiasi cosa che succede spero che vanno solo per bene. Spero che il presidente resta, troverà le fondi, non so come saranno, per rafforzare il Milan e di fare tornare questa squadra all'alto. Bah. Grandi speranze di Shevchenko. Intanto si è diffusa la notizia secondo cui si preparerebbe un ritorno di Ibrahimovic a Milano, è stata ripresa da varie fonti. Intanto voglio vedere come va a finire questa vicenda cinesi, thailandesi, orientali vari. Intanto però se dovessero arrivare gli orientali, se c'è qualcuno che avesse bisogno di un allenatore o di un dirigente, abbiamo una candidatura, Leonardo. Io sono diventato un uomo che penso che il mondo del calcio mi vede come un po' di cose. Io penso che uno che compra una società può pensare a me, uno che ha bisogno dell'allenatore con una visione societaria anche. Quindi penso che sia un po' così. Io sono diventato, per quello che ho fatto, per le opportunità che ho avuto, no? Di fare allenatore, di fare dirigente, sono diventato forse un allenatore un po' dirigente, un dirigente un po' allenatore. uomo buono insomma per tutte le stagioni. Fabrizio, provincia di Cuneo, buongiorno. Soprattutto buongiorno. Le stagioni in cui piove il grano. Dica. Buongiorno Carlo, grazie di avermi convocato. Grazie a lei. Io mi sono definito uno juventino simpatizzante romanista, sì. Un juventino un po' atipico questa sera, e oggi volevo sfrecciare una lancia a favore di Totti. Ho sentito che avete parlato molto di Francesco Totti, che condivido, secondo me è anche il miglior calciatore italiano degli ultimi 20 anni sicuramente, e la sua unica sfortuna credo sia stata quella di avere sempre sulle sue spalle, solo sulle sue spalle, la Roma. E l'unico anno in cui ha avuto un compagno di caratura internazionale come Battistuta ha vinto lo scudetto. Secondo me se la Roma avesse investito più sulla squadra con grandi campioni avrebbero potuto vincere molto di più. Non so, Fabrizio, però è anche un onere che Totti ha fortemente voluto, perché c'è stato dei momenti in cui ha preso questo tipo di decisione, come l'ha presa anche De Rossi, certamente certo. non gratis, però ha preso questo tipo di decisione: ok, rimango qui e mi prendo sulle spalle onori, oneri, tifosi e tutto quanto, quindi questo certamente. E quindi chapeau a Totti sicuramente, e onore a lui, perché comunque lo dico da juventino, ma io credo che qualunque appassionato di calcio, insomma, se non è proprio integralista, discutere Totti mi diventa difficile, proprio integralisti. Ma no, grazie Fabrizio, devo fare un giretto in Svizzera e poi chiudere. Alessandro, buongiorno. Eccomi qua, buon pomeriggio a tutti. Allora, le devastazioni per l'Expo a Milano mi hanno fatto venire in mente una cosa, che il calcio, il tifo o l'Expo sono solo un pretesto. Io ho un episodio abbastanza provante di questo. Vengo in Italia tutti i fine settimana perché la mia compagna sta in una città, diciamo così, del centro Italia. E mio cognato è tifoso e va in curva. Non cito il nome della curva perché poi non si capisce la squadra e non voglio essere tendenzioso. Sì. Comunque, 2 anni fa, in pieno agosto, campionato fermo, eravamo a pranzo insieme e mio cognato mi dice che alle 6 dell'indomani mattina, era un sabato, due pullman di tifosi della sua squadra si trovavano per andare in Val di Susa a una manifestazione NOTAV, e fu quella manifestazione dove ci furono gravissimi scontri con feriti e tafferugli. Allora, tenga presente che questa città di cui sto parlando è a più di 400 chilometri dalla Val di Susa. Cosa cacchio gliene frega del NOTAV? È solo per far casino. Non so, è certamente anche per fare casino. Poi credo che ci sia dentro anche dell'altro. Comunque meditate, domani se volete ne parliamo. Daniele Bonamici in redazione con Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronati in regia, ci sentiamo domani, ciao. 14:30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folla ai cancelli e spalti gremiti, per un gioco antico con moderni miti. Tripudio di cori, bandieri e vessilli, sodono assordanti di tromba gli squilli, e si intravede lontano il sottopassaggio, il divin codino del divino baggio.